tempi d'aria nazione. Amici, donne, chi perdone, io coltivo corone. Tu prese mosaico, scambista sopra il piano. Il pavimento lo sì, tu non fare il magico. Credici e basta, capiamoci, però mi capisci, ti ricordi, c'eri. Era d'inverno, era odio, sono viola come l'armomilla. Tu sei bello della tua famiglia, tu fai brutto e il cattivo nella tua famiglia. E sei di California come gli anni 80, sulla mia maglia c'è il mio nome. Augusto, Augusto, hip hop. Un altro feste carnevale a Nuoro 2003, viva le maschere, cari scudi e le campane, come coriandoli la cenere, fuligine e fuggissene, no no, meglio sulle nevi disagi di Giuda. Fitte domeniche, dormire, dormire, domandiamoci sempre, tutto è sempre, niente, cosa? Non importa cosa, se non sei legno è meglio, ma se sei un ramo è chiaro che non sei di ferro. E se sei rame o piombo, ma sei un tubo, ovvio, relax, ma pure troppo, tranquilla come? Non importa com'è, ma se sei mosca è meglio che voli il ragno, è meglio. Oh, gusto,